Se passa qualcosa, questa è Musica Macchina, un programma attivo dal 2001 ad oggi. E oggi, proprio oggi, stavo parlando per Radio Comica di Pesera, che per essere legittimati a esistere bisogna essere dei conduttori. Musica Macchina è sempre stato un programma a microfoni spenti, neanche a fari spenti. Invece oggi ci improvvisiamo conduttori, perché c'è scritto sul sito che bisogna essere conduttori, quindi conduciamo questo spazio che non sappiamo dove ci porterà esattamente. questo appunto stavo pensando che in meccanica quantistica l'atomo di idrogeno è uno dei più semplici sistemi studiabili in tre dimensioni, poiché risiede il nucleo con il protone e ha un solo elettrone. Il tipico esempio di tipo a simmetria centrale. Pensa che la massa inerziale all'atomo di idrogeno è minore della somma della massa del protone e dell'elettrone che lo compone. Considerate segretamente per la differenza pari alla quantità di energia negativa nascosta che deve essere fornita per separare e vincere la transizione elettrone protone che tiene nell'ala, contrastando quindi la riduzione tra le loro masse gravitazionali. Buon ascolto. Ciao, sono Rocco Tanica degli Edelweiss. Vorrei aggiungere qualcosa, ma secondo me quello che abbiamo già detto prima, unito al fatto che anche noi endorsiamo i Lucky Wolfer Destroyed e H501L, insomma, sì, la dice lunga sul nostro percorso, sul nostro trascorso e sul nostro futuro. Ciao dagli Elio e storie tese. Musica macchina, ma anche mughina masica. molto bella. Bravo, però vedi che se tu non la fai nel Cristo, dopo c'è il concerto che viene col Santo, Sanremo, Riviera, c'entra che se tu metti un po' di Cristo nella tua musica, ma il Cristo si può mettere dappertutto. La mattina ti svegli, mettete un po' di Cristo nella vostra giornata e il Cristo vi farà entrare in contatto con la felicità. Thank you. che la musica sta comanda, musica elemento chimico avente perciò lo stesso numero atomico. Parità di numero atomico. Ascoltando questa musica, Anche il brano che abbiamo appena ascoltato non lascia adito a dubbi sul fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii immensamente proporzionale al quadrato della loro distanza. Riflettiamoci. Ci troviamo qui negli studi di Musica Macchina, nel mentre c'è H501L che sta facendo il suo programma, che se non sbaglio si chiama Le Chiacchiere Stanno a Zero. È vero H501L? Allora, che cosa ci fai ascoltare oggi? Adesso una nuova follia di H501. 101L, tutta incentrata sui suoni e le pazze atmosfere dell'hyperpop. Praticamente un nuovo genere non genere, dotato di una sua visione assolutamente surreale della cosiddetta musica di largo consumo, comunemente denominata come pop. Gli artisti hyperpop sono soliti conciliare un curioso connubio tra i canoni melodici del pop attuale con quelli della musica d'avanguardia. Di frequente possiamo ritrovarci dentro un uso di melodie per synth con improvvisi cambi di tonalità accompagnati da suoni percussivi glitch oppure sbilenchi blackcore portati all'estremo. Il tutto con voci processate fino all'inverosimile che intonano motivetti orecchiabili in un continuo abuso di effettini ed effettoni. Forse il passo più breve dalla New Wave alla New Rave? E chi lo sa? Questo è quant'altro nello spazio mixato dedicato all'hyperpop a cura di H501L. Questa è Musica Macchina. Buon ascolto! Musica Macchina. Andiamo avanti. Musica Macchina. Sì, sì. Musica Macchina. Noi andiamo avanti. Musica Macchina. Sì, sì. Musica Macchina. Noi andiamo avanti. Musica Macchina. Sì, sì. Musica Macchina. Noi andiamo avanti. Musica Macchina. Sì, sì. Italian House. RCA Disney Channel. Day by day, Sonic Invasion. From nation to nation, Gaga, Gomez, Timberlake, give us a fucking break. Stop, imperialist pop. Stop, imperialist pop. Stop. Universal BMG EMI Monstrosity Fascist Control. Thanks to rock and roll, corporate sound in Dolby Surround. We'll be right back. Dial again. For dealer services, press 1. For customer service, press 2. For the marketing department, press 3. Recording paused. Press pound key to continue recording. Marked urgent. To accept this number and return to the previous menu, press star. Is it me? Thank you. Thank you. Questa è Musica Macchina. Dal 2001 siamo abituati ad intercettare tutti i sommovimenti interessanti che stanno avvenendo o stanno per avvenire nel mondo della buona musica elettronica e non solo. Ora è il momento della sequenza mixata e daremo conto di un nuovo genere interessante in circolazione, denominato Amapiano. Cos'è l'Amapiano? Amapiano è un movimento di musica elettronica creato e molto popolare nelle township che circondano le principali città della provincia di Gauteng, in Sudafrica. Lo stile prende in prestito idee da vari generi che sono stati popolari proprio nelle stesse township sudafricane, durante e dopo il periodo dell'apartheid, tra cui citiamo il jazz, il folk, l'afro, la deep e la tech house, il kwaito, il deep Bacardi e altri generi. E questa è una sequenza di Amapiano mixata da Amtech Alex Marenga. Buon ascolto! Manipolazioni sonore di Amptech. mi interessava, mi faceva piacere sapere che nel tempo libero voi invece che musica ascoltate, preferite. Ma io sono un fan sfegatato di musica macchina. Per ma quanto dai, riguarda ma che sei Mar, musica no, macchina, oh, io voglio parlare con lui, con la voce, però non so se è possibile. Ma te lo presento molto volentieri. Se lui cioè sveglio adesso oppure dorme il ma giorno e la sera. Sicuramente, se volete fate una dedica a musica macchina in diretta, gliela faccio guarda, ascoltare. Sì. Allora, bestie rare ascoltano musica macchina. Ciao, siamo le bestie rare, anche noi ascoltiamo musica macchina. Vabbè, dite qualcos'altro. Beh, musica macchina è la migliore trasmissione dell'etere. Lo dicono in tanti, lo dicono in tanti. Da quando l'uomo com'è? Ha inventato l'orecchio. Da quando Marconi ha inventato Marconi la radio. Sì. Nel mio intimo c'è musica macchina. Sonore di Antitex. Thank you. sonore di Antitec. Manipolazioni sonore di Antitec. Musica macchina. E te te lo dico a fa. Musica macchina su radio.